Martedì 14 febbraio, tra l'altro io voglio iniziare in maniera un po' insolita. Il Sole 24 Ore da oggi, lo sapete, l'abbiamo sentito anche nel nostro giornale radio, ha un dorso nuovo di 12 pagine, impresa ai territori. E allora, prima di vedere la carrellata dei titoli dei giornali, visto che oggi anche il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, firma un editoriale per spiegare questa novità, noi l'abbiamo sentito e gli abbiamo chiesto proprio direttamente il perché di questa novità per il Sole 24 Ore. Sentiamo. L'impegno che abbiamo preso con noi era che bisognasse, superata questa fase di emergenza acuta, in qualche modo dare voce con forza all'orgoglio italiano, dare voce con forza alle ragioni dell'economia reale di questo paese, perché l'Italia non meritava e non merita quei valori. L'Italia deve fare molto, deve cambiare molto, ma ha dentro di sé una forza produttiva, un sistema di imprese che ha molti vizi, però diciamo continua ad avere una forza propulsiva che va ben oltre i nostri confini, che non può e non deve essere trascurato. Quindi credo che in questo senso nasce l'impegno di dare ogni giorno una informazione puntuale sull'economia reale. Ci saranno certamente anche molte inchieste, molti approfondimenti, ma il nostro è un dorso di notizie, come c'è finanza e mercati, ci sarà impresa e territori. Ecco dunque le ragioni dell'economia reale, questo è il titolo dell'editoriale di Roberto Napoletano, oggi questa novità per il Sole 24 Ore, la cui apertura è l'allarme delle imprese, maxi stretta sugli impieghi. Mentre le aperture della maggior parte dei quotidiani generalisti è sulla vicenda della sentenza Eternit. Eternit, condanna storica, così il Corriere della Sera. L'amianto uccide, sono colpevoli, così Repubblica. Per la stampa, Eternit, condanna storica. Il Messaggero, condannati per l'amianto. Il Manifesto. Il titolo di apertura è una grande vignetta di Vauro. Torino, condannati i proprietari della fabbrica assassina del Monferrato, e c'è un cadavere che da una tomba dice: cosa sono 16 anni a confronto dell'Eternit? Per chi suona la sentenza, anche l'Unità sull'Eternit, giustizia prova d'amianto anche per Avvenire. Insomma, queste le aperture sulla sentenza che ha condannato i proprietari degli stabilimenti di Casale, dell'Eternit. Per il giornale invece il naufragio di Bersani, il Fatto Quotidiano, vince l'indipendente a Genova, suicidio PD, e anche per Libero, PD, partito dei perdenti. Dunque questa l'altra notizia sui quotidiani. Io voglio però partire da una storia raccontata da Gian Antonio Stella in pagina 25 del Corriere della Sera, perché questa è una vicenda dalla quale, come al solito, si ha una bella fotografia dell'Italia. La preside e quel bidello trasformato nel suo autista. È la vicenda della preside Anna Maria Gammeri, una piccola storia esemplare, racconta Stella, che dimostra come, oltre ai contratti di lavoro di cui si discute, sia urgente mettere mano anche ad alcune storture inaccettabili nel mondo della giustizia e della scuola. È una vicenda che parte nel 2005, quando i magistrati ricevono un esposto anonimo ma ricco di dettagli. La preside Anna Maria Gammeri utilizza un collaboratore scolastico, Nicola Gennaro, come se fosse un servitore personale messo dallo Stato a sua completa disposizione. Si fa prendere a casa la mattina in macchina, si fa riaccompagnare come se fosse uno chauffeur. «Vado a prendere la preside», dice l'uomo ai colleghi uscendo di scuola. «Ma non basta, gli investigatori scoprono che le fa fare anche la spesa. Manda questo signore a fare la spesa varie volte. Insomma, la vicenda porta al rinvio a giudizio, alla condanna a 10 mesi di reclusione per la preside e anche per il bidello 7 mesi e 300 euro di pena pecuniaria, tutte e due pene evaporate per entrambi grazie al condono del 2006. Da allora, che succede? La preside rimane al suo posto. È il caso di un istituto di Messina. Per questa preside, che usava il collaboratore scolastico anche per la spesa, per le commissioni in banca, per farsi accompagnare a casa, per farsi venire a prendere al mattino, come se fosse la cosa più normale del mondo, e racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, nonostante la condanna, questa preside è al suo posto, indisturbata. C'è tempo anche prima della pubblicità di raccontare quello che il Giornale e Libero definiscono l'ultima follia della par condicio. È un emendamento proposto dalla deputata del Partito Democratico Sesa Amici, l'ultima follia democratica, parità uomo-donna in TV. Così Cristiano Gatti sul Giornale. È passato in commissione alla Camera l'emendamento che prevede, in pratica, in base all'articolo 51 della Costituzione, che prescrive la parità tra uomo e donna, che anche nei talk show gli ospiti siano divisi metà uomini e metà donne. Di questo passo, scrive il Giornale polemicamente, una norma regolerà la presenza di belli e brutti, omo ed etero. Questo furore sessista, la rovescia che pretende di parificare tutto, perfino le tribune elettorali, sta diventando catastrofico. L'unico risultato tangibile nelle ultime campagne resta la fuga precipitosa del pubblico, il crollo verticale degli ascoltatori. Insomma, questo prevede questo emendamento, quote rosa pure nei dibattiti in televisione. Questo è il titolo di Come la vede Libero, all'insegna del politically correct. Anche Libero con Marco Gorra scrive: che succederà? Giornalisti e autori delle trasmissioni TV dovranno barcamenarsi con inviti e presenze, l'ospite tizia del dato partito da buca all'ultimo momento, e dunque occhio a rimpiazzarla con l'onorevole Caio, perché se è dello stesso partito, poi con l'autority saranno dolori lo stesso. O si trascina in studio la collega Sempronia, o addio equilibrio. Insomma, questa parrebbe effettivamente l'ultima follia provata. Nelle tribune elettorali anche gli ospiti dovranno essere, in nome della par condicio e in nome del rispetto tra uomo e dei rapporti tra uomo e donna, metà ospiti uomini, metà ospiti donne. Sono le 7:36 minuti, siamo qui, cari ascoltatori. Come detto, molti quotidiani aprono sulla storica, questo è l'aggettivo più utilizzato, sentenza Eternit. Ieri sono stati condannati alla procura, al tribunale di Torino, i due proprietari dello stabilimento Eternit di Casale, Stefan Schmidheil in svizzero e il conte belga Louis Descartier. Non si sono mai presentati in aula, due ex proprietari dell'Eternit. L'accusa era per loro di disastro ambientale doloso, omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Una sentenza storica, a 8 anni dall'inizio del processo, in tutto risarcimenti per 95 milioni e migliaia di vittime dell'amianto che ancora uccide e ancora per anni ucciderà. 16 anni per i manager della Eternit. Questo è il titolo dell'articolo del Sole 24 Ore di Filomena Greco. Il giudice ha stabilito anche una provvisionale di 90 milioni. La sentenza per i vertici della multinazionale dell'amianto franco-belga Stefan Schmidheil e Jean-Louis Descartier de Marchen è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio, scrive Filomena Greco. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino ha inflitto una condanna a 16 anni per i reati di disastro ambientale doloso, omissione volontaria di cautele antinfortunistiche, in relazione a 4 stabilimenti che l'Eternit aveva in Italia. Giustizia è stata fatta. Questo il grido di molte delle vittime che erano presenti ieri quando il presidente del tribunale per 3 ore ha letto le circa 6.000 parti civili e i nomi di moltissime persone, molte malate, molte morte, uno a uno le ha snocciolate in una incredibile sentenza durata appunto una lettura più di 3 ore. Tanto che il ministro alla salute Renato Balduzzi, intervistato dall'Unità, anche lui parla di sentenza storica. Tra l'altro il ministro Balduzzi, che risiede ad Alessandria, e racconta: ho perso amici e conosco persone che hanno avuto delle vittime per questa vicenda. Intervistato da Salvatore Maria Righi sull'Unità, parla appunto di sentenza storica, di una notizia che è la più battuta dagli organi di informazione anche oltre l'Atlantico, anche più della crisi greca, e una sentenza storica anche per il PM che ha seguito tutta questa vicenda dai primi passi, vale a dire Raffaele Guariniello a Torino, che in una serie di interviste al Manifesto, per esempio, parla pagina 3, si è realizzato un sogno, così parla al Fatto Quotidiano con Marco Travaglio, sempre a pagina 3, è un sogno e ora va fatta la Procura Nazionale, mentre si lascia andare con Marco Imarisio, sempre a pagina 3 sul Corriere della Sera questa volta, dice Guariniello nel suo ufficio a tarda sera, racconta: ascoltavo con un'espressione che sembrava triste questa sentenza, in realtà era malinconia piuttosto, questa potrebbe essere stata la mia ultima sentenza. Un Guariniello che dice: l'età per la pensione ormai l'ho raggiunta da 5 anni, questo processo è un punto d'arrivo, dopo non riesco a immaginare altro, il mio sogno è sempre stato una procura nazionale che si occupi di sicurezza del lavoro, forse è il momento per me di lasciare la magistratura. Come detto, non si sono invece mai presentati in aula, e Pierangelo Sapegno scrive un articolo su questa, pagina 5 della Stampa. Gli imputati Stefan Cimidaini, Jean-Louis-Marie Ghislain Descartier de Marchen, conte belga peraltro di ormai 90 e rotti anni. Il più interessante dei due è la figura dello svizzero Cimidaini, oggi è un filantropo che ha preso 2 lauree ad honorem negli States, è stato consulente del presidente Clinton, è il fondatore e il presidente della Business Council for Sustainable Growth, cioè della crescita sostenibile, che riunisce ogni anno a casa sua nel verde della penisola di Hurden, nel lago di Zurigo. Da più di 20 anni finanzia associazioni e fondazioni ambientaliste. Dai pannelli della Eternet è passato alle proprietà di Caio Culebra a Honduras, affittate per l'isola dei famosi, o ai vigneti in America e in Australia. Insomma, una persona che si è certamente riciclata in una seconda vita. Mentre non si è mai presentato Jean-Louis Descartier, oggi 91 anni, da Hainaut, Belgio, o Charleroi, o chissà dove, un nobile etereo, racconta Sapegno, uno spirito che aleggia anche nel suo casato, rappresentato da uno stemma di Ghi Rigore e da altre biografie, altre foto come quella dello zio Émile Descartier de Marchen, ambasciatore in Cina, negli Stati Uniti, immortalato in alta uniforme dopo la nomina di Sua Maestà le Roi de Belge a Londra. Insomma, questi sono i profili dei due imputati contro i quali le vittime ovviamente hanno gridato la loro rabbia. Vittime che sentirete anche qui intervistate, probabilmente La Stampa è il quotidiano che dedica, anche per prossimità geografica, a questa vicenda, la vicinanza casale, anche con il suo direttore Mario Calabresi, che in prima persona era a Torino e racconta sotto l'editoriale Un atto di giustizia in 2900 nomi, la cronaca della giornata di ieri. La prima parola è quella che conta: colpevoli, scrive Calabresi. Ci siamo battuti per avere giustizia, oggi l'abbiamo avuta. Così dice Bruno Pesce, sindacalista della CGIL che per primo diede retta alle denunce dei lavoratori. O Mario Calabresi che fa un paragone in questo stillicidio di nomi con lo stillicidio delle vittime che viene letto l'11 settembre ogni anno a Ground Zero a New York. Le vittime allora furono 2752, nei 4 stabilimenti dell'Eternit sono finora 2300, ma il numero cresce ogni settimana. Questa è la vicenda dell'Eternit, una vicenda di cronaca giudiziaria che però giustamente viene messa in primo piano da molti giornali. Oh, per quel che riguarda invece la politica, ed è politica sicuramente, vi segnalo che sia il Messaggero sia il Corriere della Sera dedicano una pagina alla vicenda delle Olimpiadi di Roma. Domani scade il termine entro il quale il governo deve decidere se apporre la firma per la candidatura ufficiale di Roma alle Olimpiadi 2020. Olimpiadi conto alla rovescia, oggi il Consiglio dei Ministri, così titola il Messaggero a pagina 9, Monti decide su Roma 2020, nessun incontro con Alemanno, c'è anche questo giallo anche per il Corriere della Sera, Monti, nonostante dal Campidoglio abbiano detto incontriamo e vedremo il Premier, Palazzo Chigi ha negato, e secondo il Corriere della Sera con Monica Guerzoni a pagina 5, Monti avrebbe già deciso e avrebbe deciso per il no. No alle Olimpiadi 2020, la decisione non è definitiva ovviamente, ma l'ossessione di Monti è: i rischi di sforare il budget sono enormi. C'è anche irritazione da parte dell'esecutivo per le forti pressioni, troppi dubbi, troppe incognite, troppi soldi pubblici da investire per impegnare un paese che ha appena imboccato la via d'uscita dalla crisi. Insomma, Tutto lascia presagire la fortissima convinzione del capo del governo che l'Italia non possa permettersi il lusso di lanciare il cuore oltre l'ostacolo. E a meno di sorprese dell'ultima ora, con la candidatura che non è sciolta, il verdetto non è pronunciato, ma salvo colpi di scena, la capitale non correrà per i Giochi Olimpici 2020. Questo giura il Corriere della Sera. Siete contenti? Non siete contenti, ma non resta che attendere domani. Intanto le informazioni sul traffico. E invece, a proposito di altra novità che viene annunciata da Repubblica, pare che Mario Monti, il Premier, sia intenzionato, dopodomani, in occasione delle celebrazioni dei patti lateranensi, di fare la sua proposta per quel che riguarda la Chiesa e l'ICI o l'IMU e il pagamento delle tasse. ICI anche per gli immobili della Chiesa, il governo pronto a rivedere l'esenzione, così titola Repubblica con Alberto D'Argenio. La proposta finale da spiegare dopodomani alle gerarchie ecclesiastiche è pronta in tempi di sacrifici per tutti, nell'imminenza di una condanna europea per aiuti di Stato illegali. Le esenzioni fiscali per le attività commerciali della Chiesa non sono più sostenibili. Gli enti ecclesiastici dovranno pagare le tasse anche se il governo si impegna a far salve le attività puramente no profit. Come al solito c'è un po' di confusione nel porre questa questione. La Chiesa paga l'ICI o l'IMU, tutto i dubbi sono per quelle strutture cosiddette miste, racconta anche Repubblica. La soluzione trovata dal governo permette di riportare il regime fiscale della Chiesa nel campo della legalità, pur mantenendo le esenzioni per gli enti che fanno opera puramente caritatevole e spirituale, ovvero no profit. Il problema giuridico è proprio per quelle attività miste. Come comportarsi quando in un palazzo ci sono 4 piani adibiti ad albergo e dunque commerciali e una mensa per poveri? La soluzione è quella di scorporare per il fisco le due attività seguendo lo schema previsto per le società che svolgono in parte servizi pubblici e in parte attività in concorrenza. Insomma, questa vicenda sulle tasse, sul fisco e Vaticano è un dossier che dopodomani, secondo Repubblica, Monti potrebbe affrontare con le gerarchie ecclesiastiche. Dopodomani, infatti, c'è il rinnovo dei patti lateranensi, la cerimonia e dunque lì l'occasione per l'incontro. Vabbè, la politica è anche, e molti giornali aprono su questo, lo psicodramma ennesimo nel Partito Democratico. A Genova, e avremo ospite Marta Ipazia Vincenzi, alle 8:20, sindaco uscente di Genova. A Genova che è successo? È successo che dei due candidati del Partito Democratico che si sono candidati alle primarie ha vinto il terzo, il candidato che non è organico al partito, che era ed è appoggiato soprattutto da Vendola. E ora un terremoto. Genova, lasciano i vertici del PD. Sul Corriere, ora Bersani dice appoggiamo Marco Doria, vincitore con il 46%. La sconfitta travolge il PD, questo su Repubblica. E Bersani ora dice va scelto un solo candidato. Quindi questo è l'errore di aver scelto più candidati. Marta Vincenzi si è scatenata su Twitter, non ha parlato, parlerà con noi oggi per la prima volta. E ha scatenato dei tweet che qualcuno addirittura ha detto ma è lei, è il suo profilo, oppure un'altra. Comunque a Ipazia è andata peggio. Oggi le donne riescono a non farsi uccidere quando perdono. Questo è uno dei tweet di Marta Vincenzi. Le donne che scendono in piazza fanno piazzate, sono come lavandaie che litigano, volgari. Questo sempre è Marta Vincenzi. La cultura, i nostri intellettuali, i loro giovani studenti, le firme dei giornalisti, la buona borghesia. Questo sarebbe praticamente coloro che sostengono Marco Doria. Basta con sta fissa delle infrastrutture, vuoi mettere i beni comuni? Specie se benedice Don Gallo. Questo è un altro dei tweet di Marta Vincenzi. Qualcuno, tra l'altro, ha detto ma ha perso la testa, ma che succede? Sta facendo una serie di tweet nel giro di un'ora, ha fatto 10-12 tweet. Il vincitore Marco Doria dice non sono un antipolitico, alla stampa in una serie di interviste spopola ormai su tutti i giornali. Sulla stampa dice la mia candidatura è nata con 7 amici al bar, cioè, è nata così quasi per scherzo, ha avuto l'appoggio di Don Gallo, è vero, Stefano Folli, in realtà, sul Sole 24 Ore, sul suo punto politico, scrive: l'irrompere sulla scena di un Pisapia ligure nelle vesti del professor Doria, vendoliano, fresco vincitore alle primarie a Genova, rappresenta quel genere di incidente di percorso che il Partito Democratico non può in alcun modo sottovalutare. Bersani ha offerto a caldo l'unica risposta possibile. Adesso tutti ventre a terra pensiamo a vincere le elezioni con Doria. Negli ultimi tempi, scrive Folli, Bersani ha vinto a Milano con Pisapia, presentato da Vendola, a Napoli con De Magistris, espresso dall'Italia dei Valori, a Cagliari con Zedda, indicato da Vendola, e ora si prepara a fare la campagna a Genova con discrete prospettive di vittoria, ma ancora una volta col candidato di Vendola. Insomma, è evidente che non basta dire "e ora ventre a terra" per rimuovere la realtà. Sempre più spesso i democratici sono costretti a inseguire la vittoria fornendo le truppe a un condottiero straniero. Il partito dei perdenti, così titola in prima pagina Libero, che sentenzia è l'ennesima sconfitta per il Partito Democratico, che, attenzione, tra l'altro deve vedersi dal ritorno dell'ex senatore della Margherita Lusi, che però è senatore del Partito Democratico, espulso dal Partito Democratico, che dice, ieri ha detto: ho fatto ricorso al Tribunale Civile contro la decisione del Partito Democratico di estromettermi. Insomma, una giornata veramente pessima. Tante grane per il PD di Bersani. Noi parleremo alle 8.20, anzi alle 8.30, anche di tutti quei politici che hanno deciso e quelli che non hanno deciso di rendere noto il proprio patrimonio. Libero dedica una pagina a questo: i patrimoni che la casta vuol nascondere. Pagina 11, solo un parlamentare su 4 ha dato l'ok alla pubblicazione online di redditi e proprietà. Perché molti non l'hanno fatto? Perché molti sì? Ne parleremo alle 8.30. Ho un minuto per raccontare che cosa? La vicenda che riguarda Alberto Stasi, che ricordate è stato assolto per l'omicidio Chiara Poggi, ma è stato ieri condannato per la detenzione di video pedopornografici. Per Stasi arriva la condanna, La Stampa, pagina 22. Per l'omicidio della fidanzata era uscito assolto in primo e in secondo grado, ma ieri 17 sequenze recuperate dalla memoria del suo portatile sono costate al biondino di Garlasco, oggi 28enne, una condanna a un mese di reclusione, 1.400 euro di multa convertita in pena pecuniaria di 2.540 euro complessivi, dunque non farà un giorno di carcere, ma per lui anche il divieto di... l'interdizione di lavorare nelle scuole a contatto con minori per la detenzione di video pedopornografico. Anche sul Corriere, video porno con bimbi, Stasi non potrà lavorare in scuole e centri minorili. Siete pronti per Sanremo? Sul Secolo XIX pare che Celentano bombarderà Sanremo. Finti bombardamenti sul palco, luci come fossero spari, ballerini che danzano, mimano gli scontri, nessuno sa che cosa dirà oggi, neanche Claudia Mori lo sa. Il Secolo dice: quando parlerà è un'attesa rotta che neanche i greci con i loro oracoli. Il giornale radio.